Hasbunallah li dinina. Hasbunallah li dunyana. La nostra sufficienza è Allah. Allah ci basta per la nostra religione, ci basta Allah per la nostra vita terrena. Hasbunallahu lima ahammamana. Hasbunallah liman baga alaina. La nostra sufficienza è Allah per ciò che per noi è importante. La nostra sufficienza è Allah nei confronti di chi ci opprime. Hasbunallahu liman hasadana. Hasbunallahu liman qadana bisu. La nostra sufficienza è Allah nei confronti di chi ci invidia. La nostra sufficienza è Allah nei confronti di chi trama il male contro noi. Hasbunallahu indal mauti, hasbunallahu indal qabr. La nostra sufficienza è Allah in punto di morte. Allah ci basta nella tomba. Hasbunallahu indal masail. Allah ci basta nell'interrogatorio. Hasbunallahu inda sirat. La nostra sufficienza è Allah al sirat, cioè il ponte attraversando il quale si arriva al paradiso. Hasbunallahu inda al-hisab. Allah ci basta nell'ora del rendiconto. Hasbunallahu inda al-mizan. Allah ci basta nell'ora della bilancia. Hasbunallahu indal jannati wan nar. Allah ci basta nel momento cruciale della destinazione, paradiso e inferno. Hasbunallahu indal liqa. Allah ci basta nel momento dell'incontro con lui. Hasbi Allahu alladhi la ilaha illa hu. Mi basta Allah, all'infuori del quale non c'è divinità. Alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. In lui confido e a lui ritorno pentito.